L'opera di Dio. Prendere in esame l'opera di Dio non è un'avventura da poco, innanzitutto perché essa è talmente al di sopra di ogni concezione umana che comprenderla è come voler esaminare le galassie con una lente di ingrandimento. Inoltre, i nostri limiti umani sono tali che è come se volessimo esaminare l'atomo con il nostro occhio. Eppure se ci è un ordine da parte di Dio è quello di considerare la sua opera. Anzi, investigare le cose profonde del Dio Trino è una delle attività che rendono l'uomo degno di essere fatto ad immagine di Dio. Così sta scritto nel libro dei Proverbi. È gloria di Dio nascondere una cosa, ma è gloria dei re investigarla. Proverbi 25.2. Qualsiasi spiegazione diamo al termine gloria, una cosa è sicura. La grandezza dell'uomo nell'investigare è pari a quella di Dio nel nascondere, sicché si può dire che quando l'uomo investiga è più simile a Dio di quando egli si impegna in tante altre attività. Perciò considerare l'opera di Dio ha un duplice vantaggio. Si è simile a Dio e si comprende il suo modo di agire. Detto questo, leggiamo ciò che dice la parola di Dio. Considera l'opera di Dio. Chi potrà raddrizzare ciò che egli ha reso? Curvo. Nel giorno della prosperità godi del bene e nel giorno dell'avversità rifletti. Dio ha fatto l'uno come l'altro, affinché l'uomo non scopra nulla di ciò che sarà dopo di lui. EC 7.1314. Se l'Eterno stesso invita l'uomo a considerare ciò che fa Dio, significa che gli eventi della vita non sono di facile soluzione. Anzi, vi sono cose che non è possibile rimediare e che a noi uomini tocca solo accettare. La domanda, chi potrà raddrizzare ciò che egli ha reso curvo, contiene un elemento di profonda angoscia. In effetti, noi siamo psicologicamente pronti ad accettare le cose negative proprio perché le cose non sono durature. Un dolore acuto ai denti si sopporta perché si sa che in qualche modo passa. Anche una ferita sentimentale si accetta perché il tempo riesce a lenirla. Ma se per un attimo pensassimo che il dolore ai denti o la ferita sentimentale potrebbero avere sempre la stessa intensità senza una minima pausa, sorgerebbero in noi il terrore e l'angoscia di vivere sempre in quella situazione. Forse sarà proprio questo ciò che proveranno i perduti. Non solo saranno fisicamente e moralmente tormentati da un vero fuoco, ma il loro dramma e la loro disperazione sarà proprio il fatto che ciò che stanno vivendo sarà senza fine, sarà senza nessuna speranza di miglioramento. Terribile fine, che fa accapponare la pelle solo a pensarci. Ma anche questo fa parte dell'opera di Dio. È molto comune per noi uomini accettare l'amore e la misericordia di Dio, molto più difficile accettare ciò che egli ha reso curvo e che non si può raddrizzare o risolvere. Credere in Dio non significa solo credere che lui possa dare una soluzione ai problemi o che intervenga al momento opportuno, ma una reale e totale fede in Dio deve anche accettare che vi sono situazioni irrisolvibili che lui ha decretato. Ma vi è di più, che vi siano situazioni irrisolvibili che lui ha decretato. A volte siamo costretti ad accettarlo, come la morte improvvisa di un giovane, ma accettare che Dio renda curve certe situazioni e non voglia raddrizzarle è un poco più difficile. Non è facile accettare che Dio non voglia intervenire quando un marito che prima si comportava come un normale sposo improvvisamente si mette a bere o cade vittima del gioco. È difficile accettare che Dio non voglia intervenire quando una moglie che prima e durante i primi anni di matrimonio non mostrava segni particolari di nessun genere e in seguito trascura la famiglia. O si innamora di un altro, scappando eventualmente da casa. Qualcuno forse pensa che Dio non sia coinvolto in tutte queste cose, ma se non lo è, come intendere l'affermazione della Scrittura, secondo la quale Dio ha reso curvo o difficile ciò che prima non lo era? Ci è forse qualcosa che succede in questa terra che Dio non abbia deciso? Ci è forse qualcosa che succede che Dio non voglia? Abbiamo letto che Dio ha fatto sia il giorno della prosperità, sia quello dell'avversità. Per alcuni è difficile accettare che Dio voglia che le cose siano storte, perché sembra essere irriverenti nei confronti di un Dio di amore, ma è un moralismo del quale dobbiamo liberarci. Quando ci si riferisce alla volontà di Dio, non si vuole intendere che il desiderio di Dio sia volere la sofferenza, il male, l'ingiustizia, ma che, essendo tutto sotto il controllo della sua sovranità, ciò che capita non è un avvenimento fortuito. Ritenendo che le cose storte non siano da Dio, si offende la sua sovranità. Perciò, quando si parla dell'opera di Dio, dobbiamo intendere non solo i grandi avvenimenti a favore dell'uomo, come il passaggio del Mar Rosso da parte degli ebrei, l'incolumità da un brutto incidente stradale o la guarigione improvvisa da un tumore, ma l'opera di Dio è anche quando egli rende storta o difficile una situazione. L'Apostolo Paolo riteneva una grazia le sofferenze a causa di Cristo, non una disgrazia. Il credente che vede l'opera di Dio solo in ciò che lui ritiene positivo non considera l'opera di Dio nella sua totalità e con uno spirito obiettivo. Qual è l'oggetto delle nostre considerazioni quando siamo nei guai? A che cosa pensiamo? È naturale e comprensibile che nel momento della difficoltà la nostra mente sia spinta a considerare tutti gli aspetti del problema che ci turba. Ne cerchiamo le cause nel passato, ne valutiamo gli effetti nel presente, tentiamo di prevedere le conseguenze nel futuro, distribuiamo responsabilità e colpe a chi di dovere, cerchiamo possibili vie d'uscita. Nel giorno dell'avversità l'Ecclesiaste ci invita come prima cosa a considerare l'opera di Dio. Questo significa che quando le cose mi vanno storte, il mio primo pensiero non deve essere che cosa devo fare per raddrizzarle, ma che cosa si propone di fare Dio attraverso quello che mi accade. Quando tutto fila liscio e le cose vanno bene, ricordiamoci che tutto questo è un dono di Dio. Ringraziamolo dunque e godiamo del bene che ci viene concesso senza morbosi complessi di colpa, perché Dio ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo. 1 Timoteo 6 e 17. Se dunque Dio vuole farci conoscere la sua bontà, permettendoci di godere dei suoi doni, disprezzare la gioia che ci viene offerta rimanendo tristi e preoccupati, equivarrebbe a macchiarsi di ingratitudine. Come è stato detto, la preoccupazione non è altro che mettere le nuvole di domani davanti al sole di oggi. Perciò, se nel suo piano di grazia e di misericordia Dio ha deciso di rendere curve certe cose che a me piacerebbero tanto fossero diritte, sarebbe da stolti insistere nel tentativo di raddrizzarle. Dio mi invita a riflettere e a occupare il posto, forse a me non molto gradito, nel quale è già pronta per me la sua particolare benedizione. Dio ha stabilito che sulla terra ci sia un giusto equilibrio di gioia e dolore, di riso e pianto, di luce e tenebre, di vita e morte. Dio concede all'uomo la prosperità affinché arrivi a conoscerlo come Dio d'amore e a confidare in Lui, ma permette l'avversità affinché non si adagi nella fiducia in se stesso e nelle sue capacità. Quando tutto gira storto e le cose vanno male, dobbiamo riflettere. E quanto ci è bisogno di riflettere? Ci è un tempo per godere, è un tempo per pensare, un tempo per cantare, è un tempo per pregare. Ricordiamoci che se nel giorno della prosperità la bontà di Dio è manifesta, nel giorno dell'avversità la bontà di Dio è nascosta, ma è sempre lì, a nostra disposizione. Riflettiamo dunque, ma soprattutto non dobbiamo dire che il giorno della prosperità è voluto da Dio e il giorno dell'avversità è volontà del diavolo. Perché, se oggi ci viene tolto un bene che possediamo e conosciamo, Dio ce ne vuole dare un altro maggiore che ancora non possediamo e non conosciamo. Dobbiamo riflettere per investigare l'opera di Dio, dobbiamo riflettere per conoscere le benedizioni di Dio. Questo significa che dobbiamo smettere di voler uscire dai nostri guai, cercando affannosamente di prevedere, programmare, assicurare il nostro futuro nel migliore dei modi. Così facendo ci assumiamo responsabilità che non ci competono e ci carichiamo di pesi che Dio vorrebbe risparmiarci. Dio ci promette la forza per sopportare il peso dell'avversità di oggi, ma non ci promette nulla per quanto riguarda il peso della preoccupazione del domani. La nostra preoccupazione deve essere l'ubbidienza a Dio oggi, nella situazione difficile. Il domani è un problema suo. Gesù ha detto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Questo si può fare ogni giorno, sia esso bello o brutto ai nostri occhi. Come afferma l'Ecclesiaste, Dio ha fatto il giorno della prosperità e il giorno dell'avversità, affinché l'uomo non scopra nulla di ciò che sarà dopo di lui. Con questo la parola di Dio vuole intendere che noi uomini saremo sempre incapaci di comprendere l'opera di Dio. Com'è strana la vita. Dio ci ordina di investigare la sua opera pur sapendo che la sua opera non può essere investigata totalmente dall'uomo. Perché? Perché l'uomo possa prima di tutto rendersi conto dei suoi limiti, e poi perché, anziché lamentarsi di ciò che non conosce, l'uomo ringrazi Dio di quello che comprende. E lo dico per esperienza. Io appartengo a quella categoria di persone alle quali piace conoscere e investigare, e mi rallegro di quello che imparo e conosco. Eppure, conosco delle persone che si lamentano perché non comprendono Dio, perché non capiscono la vita e non sanno dare una spiegazione a tutto. E di questo fanno una scusa, per non porre fede in Cristo, come se la conoscenza fosse un elemento indispensabile per stare bene e porre fede in Cristo. È stato constatato che solo nell'ultimo secolo sono state fatte più scoperte scientifiche da quando l'uomo ha messo il piede sulla terra. Eppure, gli uomini sono vissuti lo stesso e hanno posto fede in Cristo. La terra è stata scoperta rotonda poco più di 500 anni fa. Eppure gli uomini hanno gioito, cantato, si sono sposati e hanno creduto in Cristo. Perciò, la conoscenza è molto buona e utile, ma dobbiamo guardarci dall'orgoglio del nostro sapere. Dobbiamo investigare l'opera di Dio, non per confidare sulle nostre conoscenze, ma per renderci sempre più conto della nostra miseria umana e spirituale, per correre decisamente verso Cristo, nel quale sono nascosti tutti i tesori della sapienza e conoscenza, Colossesi 2:3, perché Cristo è l'opera di Dio. Ottobre 2006, Ellero.